chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buongiorno, buona domenica a tutti. Queste domeniche meravigliose su Radio 24, dove si può spaziare tra un sacco di argomenti interessanti. E la rubrica della Latella, e Pino Insegno, il doppiatore, che parla di fare voci, doppiaggio. Insomma, ci sono tante cose. Non lasciate le domeniche così svanire. E quindi in questo caso vi aiutiamo anche noi nel vostro rapporto con i cani, ma soprattutto anche a capire come i cani ci migliorano la vita. Sì. Stiamo tracciando dei paralleli, no? Ormai sì. Abbiamo inaugurato questa nuova stagione già con il primo articolo di Focus, che era l'arte di ottenere ragione. L'anno scorso, esatto. Nel 2016. No, intendevo l'anno nel senso l'anno di radio, no? da settembre. Okay. Adesso nel 2016, come giustamente ci diceva Rosita, abbiamo preso un altro articolo di Focus che invece di dire con le buone si ottiene tutto, si intitola 11 cose che forse fai ma che i cani non piacciono. Allora, la settimana scorsa noi ne approfittiamo anche per tracciare dei paralleli anche in ambito umano, perché esatto, si riallaccia anche a come ci comportiamo tra noi esseri umani. Settimana scorsa abbiamo parlato del primo punto, che era usare le parole più che il linguaggio del corpo, ovviamente con i cani. Esattamente. Abbiamo sviscerato tutto quell'argomento lì. Invece oggi interrompo questa cosa qua, non abbiamo detto non vale soltanto con il cane, no, noi certo. Per noi esseri umani il linguaggio del corpo è molto importante. Dobbiamo esserne magari più consapevoli, perché ci aiuta ad intessere relazioni umane più profonde. E invece oggi parliamo di abbracciarlo forte, perché gli abbracci fra i cani in realtà non esistono. Un cane e un cane non si abbracciano. E se un cane mette una zampa sopra un altro cane, è un segnale ben preciso invece di dominanza sull'altro cane. Tu mi insegni? Sì. Quindi chi è che canta? Ah, bella! Aspetta. Abbracciami. Che meraviglia. Come mi manca Julio Iglesias. Mo mi compro tutte le Julio Iglesias. Allora, evitare di abbracciarlo con tutto lo slancio che abbiamo. Io effettivamente mi catapulto sui miei cani con tutta la testa, mi metto, ecco, mi poggio... Capite, ascoltatori? No, allora, uno dei due cani non è sempre contento, si rugna. L'altro invece si fa fare qualunque cosa. No, l'altro tollera. Che è diverso. Euforia? Sì. No, tollera felice, però insomma. No, continuiamo a leggere cosa dice. Comunque, Focus. Comunque, sì, si dice tollera spesso di buon grado le nostre manifestazioni d'affetto, ma è facile capire se gradisce o meno il contatto ravvicinato, perché se quando lo abbracciamo tende le orecchie, si irrigisce i muscoli, si lecca la bocca ed evita il contatto visivo, è probabilmente nervoso. Qui suggerisce, dice, sarebbe meglio avere una forma affettiva più canina. Ecco, esatto, più canine, perché come si comportano i cani tra di loro? Cioè, quando è che tu hai visto dei cani abbracciarsi? Vabbè, ma perché non hanno le braccia. Esatto, non hanno le braccia, sono praticamente dei serpenti pelosi. No, hanno le zampe, che c'entrano, non hanno le braccia con i gomiti, esatto, così. Che, però che ci sono dei momenti in cui vero, sono t'abbraccio. Estremamente a contatto, sì. Ed è soprattutto quando dormono, no? Non vale per tutti i cani, ma molti cani quando dormono si dormono l'uno addosso all'altro. Allora, questo è la trasformazione. Come te. Questa è la trasformazione. Che i cani fanno, no, dell'abbraccio, cioè l'uno si addormenta, arriva l'altro vicino, lo annusa, fa una curva con delicatezza, si mette lì e poi pof, gli si mette addosso, come i cani per esempio quando Morfina e Euforia ci dormono addosso. Tu fai così, fai una curva nel letto, mi annusi, poi pum, ti butti addosso a quattro di bastoni sul lettone e io non ci sto più, per esempio. Però questo è l'abbraccio dei cani, noi possiamo anche cogliere l'occasione, quindi se noi piace questo contatto fisico così, con così tanta epidermide a contatto. Sì, a me sì. Anche a me piace tanto, ma allora invece di prendere il cane da lì dov'è, trascinarlo verso di noi e abbracciarlo e trattenerlo, che ai cani non piace, dobbiamo aspettare che sia il cane a venire lì. Quando per esempio Jean-Pierre si intrufola col suo muso, che te lo mette lì sotto la scella, il braccio e via dicendo, ecco, che si sente quel suo respiro proprio godurioso, no, del contatto fisico, quelli sono i momenti migliori per abbracciare. E la stessa cosa vale tra esseri umani, perché pensateci, a volte noi veniamo abbracciati e ci piace, e l'abbraccio è un abbraccio bello e sentito, ci sono delle persone che sono dei buoni abbracciatori. Altre volte ti viene da dire sta su de dos. Bravissima. Altre volte dici, ma questo abbraccio, cioè non lo senti che ti ho già smollato? Ma mollami, sei una zecca, una allora, tollina attaccata allo scoglio. Quindi allora, che cosa che rende un abbraccio bello e un abbraccio invece che non lo vuoi più, che ti dà fastidio? Beh, se uno è un pezzo di gnocco, una pezza di gnocca, vedi che l'abbraccio ti piace. Voglio vedere io. Prima abbiamo visto una bella lezione di... Cos'è che hai detto giù qui al bar di Radio 24? Una bella lezione di etologia. Di etologia, ragazzi. Che cosa succedeva in questa lezione, Rosita? Succedeva che c'era una bella gnocca e quattro intorno. C'era una bellissima ragazza, no? Che si prodigavano a dargli la chiavetta, a caricarla, a portarle da bere. Lei è fantastica, ma ha un fisico pazzesco. Sì, lei era una ragazza molto bella. E questi quattro uomini che si avvicendavano attorno a lei. Se l'abbracciavano, se con le loro compagne ignare a casa, no? se ce le hanno ignare, se no. Insomma, questi qua che forse insomma non si rendevano conto, però era una bella lezione di etologia. Bellissimo. Proprio dal vivo, come effettivamente una donna viene corteggiata. Questo in etologia è, come si dice, è utile perché poi ci si accoppia. E io non so se si sono accoppiati. Quello volevano arrivare con carica la chiavetta, ti do il cappuccino, prendi la brioche. È funzionale alla riproduzione, cioè la femmina deve poi accettare il pretendente, no? Eh certo. Bello. No, è interessante. Allora, che cosa rende l'abbraccio fastidioso o no? Il ricalco. Cioè, tu devi riuscire a capire come abbracciare l'altro, capendo se è il momento di avvicinarti o no dal suo linguaggio, dal corpo, e capire che tipo di abbraccio, quanto puoi stringere questo abbraccio, quanto deve essere delicato o no, e quando mollarlo. Abbiamo fatto vedere, mi ricordo, un filmato di Jane Goodall che viene abbracciata da uno scimpanzé alla nostra serata di Chiedimi se sono felice. Ecco, in quel momento io mostro scusate come bisogna abbracciare, nel momento in cui lo scimpanzé molla appena l'ha presa, Jane Goodall la molla anche lei. Questa danza, no, dell'abbraccio è quello che rende l'abbraccio speciale. Sagge parole, anche se io ho le mie frenesie, quindi a me piace pizzicare, mordicchiare, appiccicarmi un po' come una cozza. Che può essere tollerato, sì, soprattutto se siamo un bel rapporto. Allora, siate bravi abbracciatori ed evitate di abbracciare i cani che a loro non piacciono. Esatto, allora adesso ci ascoltiamo il traffico e subito dopo ci abbiamo Alessandra Celentano. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Signori e signori, qui con noi Alessandra Celentano. Salve, buongiorno a tutti voi. Ma per caso è parente del famoso cantante attore Celentano Moleggiato? Sì, no, è lui parente mio. A proposito, adesso io ho quest'incubo in famiglia, lo voglio dire in diretta a Radio 24. Lo dica. Allora, io nasco come figlia di, e poi a un certo punto divento sorella di, poi a un certo punto divento cugina di. Pensa poi, che poi a volte sono stata anche fidanzata di. Pensa che tragedia. Un incubo. Io sono Rosita di Celentano a questo punto, invece che il D nel cognome. Allora, Alessandra Celentano, nota amante degli animali, ed è per questo che è qui con noi oggi, è anche... Però una grande ballerina classica, lei è stata la prima ballerina dell'Ater Balletto di Reggio Emilia per 15 anni, Ale? Sì. Insomma, parla con, quando va da Maria De Filippi. È stata una grande scusami, è stata una grande maître, perché se sbaglio mi bacchetta. Vedi, allora, maître du ballet, scusami, amore, fammela dire fino in fondo, cavolo, sto presentando mia cugina. Perdonami, vada pure avanti, sentiamo. Allora, sono maître du ballet, è stata maître alla Scala, al Teatro di Roma, di Firenze, di Napoli. Lei prepara tutti i primi ballerini del mondo. Per chi non lo sapesse. Signora, vedo che è informatissima. Ma come mai? Ma lei la conosce questa Alessandra Celentano allora? Di passaggio, so che io ho un bel collo del piede, guardi. Esattamente. Ma guarda, questo è esattamente il punto, perché tu devi sapere che io non guardo tantissimi amici, vabbè, la televisione in genere, no? Però mi era rimasta impressa questa discussione sul collo del piede, che immagino che tutti gli italiani oramai conoscano. Sì, è stato il tormentone per un sacco di anni. Sì, allora, io che da profano e da fuori non conoscevo le cose, dicevo, cazzo, ma tua cugina è veramente una stronza. ma perché tratta così le persone, no? Allora Rosita ci ha tenuto a dirmi: ah, guarda che mia cugina nella vita è una persona simpaticissima, che ama tutti, ama il mondo, la vita, le persone, gli animali, eccetera. Quando lei è così è perché parla con cognizione di causa, e adesso abbiamo capito perché, perché sei una persona che va lì a parlare, è severa, con, esatto, è molto severa e pretende molto, perché quel mondo lì è un mondo che pretende, quello della danza classica è un mondo in cui si pretende tanto, e quello, l'intenzione buona dietro il comportamento di Alessandra è: non voglio che le persone si illudano, perché poi le batoste sono grosse. Bravissimo. Esattamente così. Detto ciò, questo, nella vita invece ne fa di ogni, facciamo di ogni, perché siamo distratte. Poi ci confondono al telefono quando facciamo gli scherzi al telefono, ti ricordi, Ale? Sì, perché abbiamo la stessa voce praticamente, almeno così dicono, perché... Noi abbiamo sempre anche un po' approfittato di questo sketch, se ben sai. Sì, sì, con qualcuno abbiamo messo in se ben sai. Era riferito a qualche fidanzato? Ma fidanzati, amici, mettici dentro quello che vuoi. Sì, rispondevo io, pensavo fossi tu, rispondevi tu, pensavo fossi io. È vero, me l'avete fatto anche una volta, pensa, sì, sono stato, sì, vittima del vostro anche scherzo. Sì, sì, anche a me. Ah sì, perché noi ci divertiamo quando molto. Quando ancora, insomma... Perché noi ci divertiamo con poco. Molto poco. Cosa volete dire? Allora, scusa, una volta ci siamo divertite da sole a farci le fotografie con l'autoscatto, ancora quando c'era la pellicola. Mamma, che e una mattina ci siamo svegliate molto presto, a mezzogiorno, eravamo state in discoteca, tipo fino alle 4. Io avevo delle parrucche. Che strano, no? Parrucche e in mutande registi, noi ci siamo messi a fare delle fotografie tutta la mattina sul letto con l'autoscatto come una volta. Poi scopriamo dopo 2 ore che ridavamo come due pazze che non c'era il rulino dentro. Non ci posso credere. Però non contente, lei è scesa dal tabacchi, ha preso il rulino, è tornata su e abbiamo ricominciato da capo. Beh, io sono pazza, però. Quelle foto sono proibitissime. E certo. Detto ciò, parlaci del tuo rapporto con gli animali, Alessandra. Beh, potrei sintetizzare dicendo che io vivo per i miei bambini pelosi, quindi... Che sono? Allora, Nicotina, primogenita. Nicotina, allora, già partiamo da Rosetta che ha Euphoria e Morfin, adesso c'è anche Nicotina, il prossimo come si chiama? Spinello? Allora, Nicotina, Martino. Che sono due volpini. E sono due spitzer schinani della famiglia dei volpini, sono meravigliosi. E poi ho i due piccolini che sono demi-plié. Demi-plié, il demi-plié della danza classica. Esatto. Siccome sono piccolini, mi piaceva, mi faceva ridere, era divertente, per cui insomma. Vorrei dire che fra l'altro lei questi cani, pur essendo di razza, sono quelli che sono arrivati con degli scatoloni dall'est. Ahia. Purtroppo sì. Pieni di acciacchi, pieni di problemi, presi allora, troppo ridiciamolo, piccoli. Ridiciamolo, a chi ci sta ascoltando, non comperate cani dalle fiere dei cuccioli, assicuratevi che questi cani non vengano dall'est, perché altrimenti contribuite ad un mercato che vale molti soldi, ma che vale anche la morte della metà dei cuccioli e una vita purtroppo a volte non proprio bella, perché questi cuccioli spesso il problema è che quando li vedi di fantasia cosa fai? Purtroppo sì, però è vero perché uno alimenta questo mercato e non va bene, tanti non lo sanno, capito? L'altra volta abbiamo parlato con un'esperta della LAV e lei ci diceva l'unico modo sicuro per evitare di alimentare questo mercato è adottare cani in canile. Senti Ale, ma allora come ti è cambiata la vita? Nel senso, voi dovete sapere che ho insistito molto io perché prendesse un cane, ma poi lei ha presi 4. In tutto ciò vi manca un particolare: sua sorella, che ha la mia età, che si chiama, non so se è contento oppure una condanna, Adriana Celentano. Perché esatto, lo zio, esatto, è una condanna. Lo zio Sandro, il fratello di mio papà, ha avuto 2 figlie. La prima cosa ha fatto per omaggiare suo fratello minore che era diventato famoso, l'ha chiamata Adriana Celentano. A scuola, poverina, è stato oggetto di presa in giro. La secondogenita, lei, Alessandra, l'ha chiamata come lui, che si chiamava Alessandro. Una fantasia in famiglia, devo dire. È stata carente in quel momento. Adriana ne ha presi 4 pure lei. Ecco, quindi 8 cani in quindi totale. Quindi vivono un una sopra l'altra in una villettina fuori Roma e ci hanno 8 cani in 2. In giardino sono praticamente 8 cani e poi abbiamo anche la micetta della mamma, quindi vuol dire abbiamo anche, ecco, non ci facciamo mancare niente. Che prima erano 2 le micette, poi l'altra era anziana, è morta. Senti, sì, ma che cosa ti hanno insegnato gli animali finora? Non so se hai mai fatto una riflessione come questa. Ma la riflessione è stata che spesso noi pensiamo di essere noi a insegnare gli animali e invece sono loro che insegnano a noi, dall'amore al rispetto alla dedizione, come si dice, tutto, siamo noi che dobbiamo imparare veramente tanto dagli animali. Vedi che questa cosa emerge continuamente, ogni volta che intervistiamo qualcuno non si fa che ripetere il fatto che tante volte se pretendiamo noi di insegnare, invece sono gli animali che possono insegnare noi. Assolutamente sì. Poi vabbè, tu insegni nel senso che insegni veramente, e voglio dire, devo dire che le volte che io ci ho tampinato con le mie domande sono state noi istruttive di più, perché comunque appunto siamo noi che dobbiamo essere istruiti a diciamo relazionarci con loro, metterci, no? In gioco, sì. Vedi, c'è come il parallelo di una ballerina, no? Che va sul palco di un teatro come quello della Scala, e ha una relazione con la danza e col pubblico, no? Sì. E in una relazione si è in due, cioè è diverso rispetto a qua. Se un ballerino dovesse ballare da solo su un palco, ci sarebbe qualcosa di diverso, credo, o sbaglio? Assolutamente sì. Vedi, c'è una relazione, l'atmosfera che si crea, l'aspettativa, e questa è la stessa cosa che si verifica con gli animali, cioè nella relazione si è in due. Che cosa vuol dire questo? Che tante volte a noi si rivolgono gli istruttori cinofili dei proprietari che dicono: il mio cane ha questo che non va, cambiamelo. Cioè è il cane che deve mettersi in gioco, il cane che deve cambiare, io non devo fare nulla, è una specie di cinofficina, no? Mentre in realtà, se noi diamo per buono il fatto che siamo in un rapporto, in una relazione col cane, questo coinvolge anche noi e quindi presuppone il fatto che ci sia una nostra crescita, esattamente come il pubblico che va a vedere un balletto deve essere un pubblico che ha una certa non preparazione, educato, certo. Cioè che ha una certa apertura in quella dimensione là, che è un pubblico colto e pronto a percepire la bellezza che si cela dietro quelle rappresentazioni. Assolutamente sì. Allora, mi viene da ridere perché quando ho convinto Alessandra a prendere il primo cagnolino, che era Nicotina, questo spitz, gliel'ho portato io, è venuta a Milano a prenderlo, gliel'ho portato io. Dopo un po', innamorata pazza, diventa totalmente dipendente succube di questo cucciolo, scopre di essere una donna parecchio apprensiva. Quando poi prende il secondo cane, poi il terzo, poi il quarto, poi io mi ricordo che ogni tanto diceva: io ti odio. Perché io ti odio, perché se stanno male sto malissimo, perché effettivamente noi che siamo apprensivi, perché anch'io sono così, due pazze, parlavamo solo di cani, solo di quello, sì. Le scalette che non abbiamo, le scalette. Sì, io credo che per chi non ha degli animali, credo che sia quasi impossibile da capire poi il rapporto che si instaura con questi esserini meravigliosi. E quindi noi da fuori probabilmente sembriamo delle pazze, poi in realtà anche chi se ne frega, nel senso che poi ognuno è giusto che si rapporti, si relazioni con le cose come meglio crede, no? Certo. Io ho una convinzione che chi ama gli animali è una persona buona e non può essere differente. Ma... e viceversa, purtroppo, perché ci sono anche tante brutte cose in giro, che bisognerebbe riuscire a lottare di più per tutto questo, per tutto il male che fanno gli animali. Pensa che è stato fatto uno studio su questo, abbiamo intervistato il Corpo Forestale dello Stato da questo punto di vista, perché c'è uno studio che conferma come il maltrattamento sugli animali è una sorta di preludio, comunque si alzano le probabilità che le persone che maltrattano gli animali poi maltrattino anche gli esseri umani, che abbiano poi problemi nella certo. vita sociale con gli esseri umani. Beh, sì, che compassione per... Io avevo solamente visualizzato un attimo questa cosa. Alessandra è single. Eccoli. Sentili. Alessandra è single e praticamente nel suo lettone è una grande cuccia, perché nel suo letto ci mette le cucce sul letto. Cioè io già dormo con i cani sopra sul letto. Sopra e sotto il letto le cucce. Ecco, compulsiva di cucce, perché i primi tempi uno va a comprare, che ne so, il cappottino, il guinzaglio, la ciotola, le cose. Lei piene, a casa adora piena di cucce. Sì, sì, ma va bene, anche messe per terra. Tra l'altro abbiamo detto che far dormire il cane sul letto non è vero che diminuisce il tuo ruolo di leader all'interno del branco, ma al contrario, ci dimostrano i cani randagi osservati, quando c'è un rapporto con una guida, quando tu sei una guida, è un rapporto molto stretto di affiliazione con gli altri, quindi dormire assieme invece è una cosa che stringe, che ti rende maggiormente autorevole con il cane, quindi ecco, vedi? Puoi farlo. La cosa che dovete fare invece tutte e due, mie care signore, è essere molto meno apprensive. I cani non sono bambini, anche se sono piccoli, lo so. Come una lo so. Signora, una nonnina che abbiamo incontrato al parco, io e Rosita, ce n'erano sì. due, tutte e due con un chihuahua, hanno impartito lungo. Delle bellissime lezioni a Rosita, dicendo: tenga giù i cani, ma perché lo deve prendere su? Sì, è vero, è vero. È vero, io dovrei essere meno apprensiva, però purtroppo c'è qualcosa, mi preoccupo. D'altronde faremo una classe di socializzazione con Angelo assieme, tesoro. Bravissima. Mio. Sì, ci toccherà. Ale, ti do un bacio, grazie. Grazie Alessandra Celentano. Grazie a voi, complimenti per questa trasmissione bellissima che io seguo sempre, ovviamente. Grazie. E che è veramente utile per le persone, dovrebbe farne di più. Salutaci Maria De Filippi, e dile che magari le facciamo una telefonata, che sappiamo che anche lei adora molto, esatto, gli animali e i cani. Esatto, amante dei cani, infatti. Grande amante, ciao, dei cani. Ciao tesoro, un bacione. Ciao Alessandra Celentano. Un bacione, ciao a tutti. Ciao, ciao. Chiedimi ciao. Se sono felice, @radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Buongiorno, rieccoci in questa domenica. Abbiamo con noi Susanna Canonico, che è un istruttore cinofilo del centro cinofilo Canis Ridens, che è un'amica. Canis Ridens, bellissimo. Canis Ridens. Canis Ridens. Ah, okay. È una mia amica, è un istruttore cinofilo formatosi nella mia scuola, che sta Think facendo dog. Tante belle cose, e di recente è anche neomamma. Ciao Susanna. Ciao. Ciao Susanna, come fai a seguire tutti, bimbo, e cani? Quanti cani lavoro. Avete? Allora, noi nostri ne abbiamo 5. Ecco, 5 cani. Sono un numero importante. Eh sì. Che cani sono, Susanna? Allora, noi abbiamo 2 incroci molosso, che la prima l'ho adottata 8 anni fa da un canile di Roma, adesso ha 17 anni, arranca, ma è sempre la più tosta di tutte. Amore. Sì. Poi abbiamo un altro molossone adottato da Roma, sempre da questi canili un po' particolari, che ha 12 anni, quasi 13. E poi abbiamo 3 disperati, che sono la cricca dei nostri caos in casa, che sono un borzoi, levriero russo, che si chiama Doriano. Poi abbiamo Teide, che è un podenco canario, cane sempre eccezionale. E poi abbiamo la disperata di casa, che è veramente una grandiscola, che è Kandahar, che è una levriera afghana giovane di 2 anni. Oddio. Che ha fatto più danni di tutti gli altri. Meravigliosi, però. Tutti salvati, no? Sì, tutti adottati, anche quelli, ecco, quelli di razza pura. Ti piacciono le sfide facili, Susanna? Esatto. Ma infatti questo è il discorso. Cioè, come fa una mamma con dei cani che non sono appunto dei barboncini, ma sono dei cani grossi, impegnativi, eccetera. Quindi già questo è ammirevole, ma si può fare. Ma come sei riuscita adesso che hai avuto un bimbo o una bimba? Un bimbo maschio. Un bimbo che ha quanto? Si chiama Rafael, 3 mesi e mezzo, quasi 4. Ecco, come sei riuscita? L'hai presentato ai cani? I cani sanno che c'è certo. un nuovo arrivato. Com'è stato certo. l'inserimento, la novità? Allora, io faccio una premessa, sono molto fortunata perché comunque sia io che mio marito lavoriamo in casa, quindi noi siamo con i nostri cani 24 ore e anche con i cani appunto dei clienti che gestiamo qua al centro cinofilo. Loro hanno vissuto già tutta la gravidanza insieme a noi, quindi io gli permettevo sempre comunque di esplorare qualsiasi zona della casa con tutte le cose che stavano arrivando, quindi che ne so, il lettino, le tutine. Tutto quello che stavamo preparando, loro avevano appunto libero accesso all'annusamento e certo. all'esplorazione. Quindi ci dice Susanna, perché il motivo per cui l'abbiamo chiamata è proprio questo: è un istruttore cinofilo, una neomamma alla quale sono aggiunti degli interrogativi, no? E si è detta quanto farebbe bene sapere alle mamme che hanno esatto. cani già e che stanno aspettando dei bambini, oppure che hanno il bambino e vogliono il cane, quanto farebbe bene loro conoscere, avere a disposizione queste informazioni, non della serie si può fare, ma anche come si fa. Cioè, e quindi la domanda di Rosita effettivamente calza, perché una dice: ma come faccio a preparare i miei cani se io ho già dei cani all'arrivo del bambino? E la risposta di Susanna quindi è: facendogli annusare in anticipo i cambiamenti. Tutti, perché altrimenti si rischia di arrivare a quei 3 giorni, che sono i famosi 3 giorni che si passano in ospedale. Io ho avuto un parto molto difficile, quindi è stata una settimana, però si rischia che in quei giorni, 3 giorni di ospedale più rientro a casa, viene scombussolata tutta la vita del cane all'improvviso. Invece è bene iniziare prima ad effettuare i primi cambiamenti. Ma tu dici che loro già dalla gravidanza, la cameretta, questi preparativi qui, loro già si accorgono? Beh sì, hanno una percezione veramente molto alta. Poi comunque siamo sempre in sintonia, certo. A livello di empatia loro sono animali fantastici, quindi riescono a sentire tutti i nostri cambiamenti ormonali. Noi che siamo molto fisici, i nostri cani sono anche molto fisici, si appoggiano alla pancia, sentono i movimenti, si spaventano anche. Sì, appoggiando la testa con il calcio. Oh, che cosa è successo? Senti, ma quindi tu inizi ad avere quei filmati dove magari metti tuo figlio nel seggiolino a terra e loro li si addormentano vicino, vanno lì loro? Assolutamente sì. Che meraviglia. Che meraviglia. Sì, sì, sì. Tra l'altro voglio anche lanciare un messaggio importante. Uno dei nostri cani, il molossone, adottato da Roma, quello, il maschio, lui ha sempre avuto grossi problemi con i bambini da quando l'abbiamo adottato. Lui aveva già 11 anni quando l'abbiamo portato a casa e portandolo a spasso nel primo periodo abbiamo visto appunto che lui abbaiava i bambini che correvano, soprattutto quelli magari urlanti sopra i 5 anni, sotto i 12. Quelli urlanti abbaierei pure io comunque. Insomma, più il loro movimento è carico ed energico, più lui si infervorava, diciamo. Abbiamo fatto un lavoro su questo e poi ci siamo accorti proprio che la sua, chiamiamola aggressività, ma non è aggressività, era molta paura, probabilmente data dalla non conoscenza. Sì. Quindi abbiamo dovuto fare appunto tutto questo lavoro di abituazione ai bambini, questo anche prima che io rimanessi incinta, ma proprio per una questione di convivenza, al di là del fatto che voi magari un giorno avreste potuto avere un bambino, certo, anche solo per quieto vivere, insomma, anche ma per lui, per tutti. Quindi va molto bene. Quando è arrivato poi Raffaele, abbiamo fatto appunto tutto questo lavoro con tutti e cinque, naturalmente non tutti assieme perché i nostri sono cinque e oltre ad essere cinque sono dei cani molto, a parte i due vecchietti, gli altri tre sono dei cani molto uniti fra loro. Quindi se arriva uno ad annusarlo arrivano anche gli altri due saltando tutti felici e festosi. Senti, ma un'altra cosa, ma dormono sul letto con voi? Allora, tutta questa cosa la posso riassumere con Ava, che è il cane più anziano, è la comandina. Io praticamente non ho mai dovuto insegnare agli altri cani come comportarsi all'interno di casa perché lei ha messo le regole. Ma dai, quindi lei dorme sul letto e non ha mai permesso a nessun altro cane di avvicinarsi. Quindi in realtà dorme solo lei, ma per una sua scelta. Però va bene così perché cinque grossi. Senti, il tuo compagno dove lo fa dormire? Allora Fabio è quello più incastrato nel letto. Però ci stiamo tutti. Lui è un atleta, tra l'altro, Fabio, quindi capito? È un contorsionista. si mette bene. Scusa, c'è una cosa per me veramente importantissima. Vorrei che con Susanna questo argomento lo affrontassimo, perché il cruccio, ci sono di mezzo medici, veterinari, pediatri, prescrizioni, la toxoplasmosi. Sì. Questa è una cosa che veramente adesso dobbiamo un attimo farci il punto, perché mi sono rotto le scatole di sentire minchiate. Allora, assolutamente. Cosa ci sei di... Il barone gli è cascata la corona. Scusate, la raccolgo un attimo. Quindi Susanna, aiutaci un po', parlaci della toxoplasmosi. Sì, allora la toxoplasmosi è appunto questo virus che viene trasmesso all'uomo tramite soprattutto il gatto. Ma anche lì non bisogna allarmarsi assolutamente. Io mi sono documentata moltissimo prima di intraprendere questa strada che sfocerà in diversi progetti per aiutare appunto le neomamme o le donne in gravidanza che hanno appunto dei cani a casa. Non bisogna allarmarsi neanche se si possiede un gatto, perché il cane non trasmette questa malattia all'uomo. Purtroppo abbiamo sentito di pediatri che hanno appunto, o medici che hanno appunto consigliato l'allontanamento degli animali, cani o gatti, da casa. Ma esatto. Non è il caso. Perdonami se faccio il punto, perché il motivo per cui poco fa ho detto toxoplasmosi è perché a volte io sento delle persone che prendono il gatto e lo danno via. A volte anche il cane, cioè perché? Perché sta arrivando il bambino, come fai? Allora lo devi dar via perché c'è la toxoplasmosi, invece assolutamente no. Su questo ci corre in aiuto anche il sito del Ministero della Salute, che sulla toxoplasmosi ha fatto un buon trattato dove ci sono tutte le informazioni disponibili, necessarie, e specifica appunto questa cosa. Le uniche cose a cui prestare attenzione sono il cambio della cassetta del gatto, dove ci sono le feci del gatto, tenendo comunque presente che è una malattia che fa la sua incubazione all'interno dell'intestino dell'animale. A parte che il gatto deve essere un gatto che esce, quindi ha contatti con altri gatti o comunque con roditori malati, quindi non, neanche il gatto di casa che non esce non è veramente praticamente impossibile che la possa contrarre. E poi anche comunque il gatto che comunque esce ha questa incubazione all'interno delle feci. Una volta che le feci vengono espulse, prima che se fossero malate, ci vogliono tra 1 e 5 giorni prima che comunque potrebbero essere problematiche. In una cassetta in casa solitamente vengono tolte dopo poche ore. Sì, certo. Comunque il contagio è veramente molto difficile, ma per sicurezza il Ministero della Salute comunque consiglia di utilizzare semplicemente dei guanti in gomma. Perfetto. Per pulirla. Da allontanare un gatto a usare solamente i guanti in gomma? In realtà il pericolo maggiore è mangiando carne cruda. Che è un altro veicolo di trasmissione. Oppure, non so, delle verdure non lavate, crude, non ben lavate, che comunque sono state a contatto con le feci di questi animali malati. Però diciamo che il contagio non è così facile, ma meno ancora facile prenderlo dal proprio gatto, ancora meno dal cane di casa. Poi voglio dire, quindi... le verdure, normalmente una persona va dall'ortolano e si compra le verdure, non è che... quindi il proprio gatto non c'entra nulla. Senti, ma no. A proposito, visto che siamo in argomento, mi vengono in mente i genitori iperigienisti. Cioè che si preoccupano tantissimo del fatto che siccome ci sono degli animali in casa potrebbero trasferire malattie. Te hai fatto delle riflessioni su questo, immagino? Sì, assolutamente. Ho anche parlato con dei professionisti del settore, sia veterinari che medici. E assolutamente sappiamo che il cane non è questo diavolo in casa, non è un untore. Anzi, la vicinanza del cane ai bambini li può tantissimo aiutare anche nella costruzione del loro sistema immunitario. Ci sono molte ricerche, non una sola, ma ci sono tante ricerche che aiutano proprio in questo. Dicono proprio che i bambini che vivono con gli animali sono quelli più forti, che hanno un sistema immunitario più potente. Benissimo. Quindi assolutamente la vicinanza del cane può essere un grande aiuto ai bambini, anche in questo senso. È chiaro poi che bisogna sempre prendere le precauzioni corrette, però quello dovrebbe essere fatto sempre. A prescindere. Esatto, poi insomma il troppo igienismo in realtà invece potrebbe portare a più problemi piuttosto che risolverli, quindi benissimo. Anche in questo caso le giuste accortezze, ecco, diciamo. Senti, diciamo a noi piace spesso fare dei paralleli tra l'etologia del cane e l'etologia umana, no? I nostri comportamenti. Mm-hmm. Chiacchierando con te era venuto fuori che c'è un momento della mamma in cui si concentra totalmente sul figlio e manda a quel paese chiunque gli stia attorno, che è normale. Esatto, io ho avuto la fortuna di avere un'ostetrica davvero molto preparata che mi ha fatto veramente quasi un corso di preparazione individuale e ha delle grandi basi di antropologia. Come si chiama lei? Anna Maria Cuozzo. Ok. Ed è un'ostetrica dall'83, credo. Quindi ti ha fatto notare che è normale questa cosa qui? Sì, esatto. Poi ho veramente letto moltissimo a riguardo, ci sono tantissimi esperti che hanno scritto cose di questo tipo, di quanto noi siamo mammiferi, ma invece la cultura ci ha un po' soffocato questi aspetti. Infatti c'è questo prendere in giro un po' le donne incinta che sembrano nervose, che cambiano umore in fretta, che magari piangono magari facilmente, esatto, certo, abbiamo tutta una tempesta ormonale normale. Esatto, ma oltre ad essere normale sono cose che vanno protette, che non vanno... ridicolizzate o minimizzate. Esatto. Esistono anche degli altri aspetti che fanno parte dei mammiferi, che fanno parte anche di noi, che sono quelli più... demonizzati dall'opinione pubblica, ad esempio la protezione della pancia o la protezione dei piccoli appena nati. Sì. E la mamma, e questo è successo anche a me sia in gravidanza che non appena nato Rafael, diventa molto protettiva e quasi non vuole che le si tocchi né la pancia né il bimbo appena nato. E non è facile nell'ambiente in cui viviamo, nella società in cui viviamo, non far capire quanto questa cosa sia importante. Io ho scelto di forse apparire un pochino antipatica, ma di proteggere no, la va bene, mia... è un messaggio che mi ha mandato. Mi raccomando, benissimo. Quando arrivano gli zii a casa non è che per forza devono andare a precipitarsi sul bambino e prenderlo in braccio. La mamma è normale che si arrabbia e va tutelata. Sì, grazie Susanna. Come tutti i mammiferi. Esatto, come tutti esatto. I mammiferi, come succede anche ai cani. Grazie Susanna. Riapprofondiremo questo argomento. Susanna Canonico la trovate su internet digitando su Google Canis Ridens. E se volete, esatto. Ciao Susanna, buona vita. Se volete scriverci anche su questo argomento, chiedimi se sono felice, @radio24.it. A ciao. Tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Che bello questo mondo. Che bella questa prospettiva del cane. A proposito di prospettiva del cane, ci sono un sacco di cose meravigliose di cui vi vogliamo parlare. Per esempio, io ho scoperto, abbiamo scoperto con Angelo, informandoci e leggendo il più possibile, che i cani aiutano a testimoniare in aule di tribunale. È bello questo, In America nel 2012 nasce praticamente la Courthouse Dogs, che nasce ufficialmente appunto nel 2012 grazie alla collaborazione tra Ellen O'Neill Stevens e il veterinario Celeste Walsall, con l'obiettivo di promuovere la giustizia con compassione. Okay, questa cosa nasce come la pet therapy, cioè la pet therapy è nata perché una psicoterapeuta ha cominciato, faceva qualche sua seduta con i suoi pazienti insieme al suo cane, vedeva che quando c'era il suo cane, che era un golden retriever, i pazienti si aprivano maggiormente, avevano una migliore disposizione d'animo, facevano una crescita e difatti maggiore. I cani che sono usati qui sono soprattutto Labrador e Golden Retriever. Sì, ma è così che ha cominciato la O'Neill Stevens, perché nel 2003 ha sperimentato per la prima volta l'uso di un cane in un palazzo di giustizia americano e si è resa conto che questo aveva degli effetti benefici, quindi poi dopo un duro lavoro, come solitamente accade alle persone che si impegnano, nel 2012 è nata questa. Difatti i cani prima seguono un addestramento di 2 anni utile a renderli immuni da situazioni di caos e di altro stress, perché spesso in tribunale ci sono urli, rumori, picchiano sulle cose. Ma tra l'altro sai cos'è l'altra bella cosa? Non soltanto i golden retriever e i labrador, uno dice, si prestano a questa cosa della pet therapy, di tenere calme le cose, ma è anche buono in funzione del cane, perché sono dei cani solidi, sono dei cani con un'ottima resilienza, non fragili, che quindi è più facile. Cosa vuol dire resilienza? È l'opposto della fragilità. Cioè sono dei cani stabili, no? Se succede qualcosa attorno a loro recuperano facilmente da situazioni pressanti, le sanno affrontare bene, quindi è giusto che ci siano dei cani come questi e non dei cani fragili, no, magari impauriti. La cosa, in poche parole, i cani in aula non è che fanno molto, perché si siedono vicino ai testimoni, soprattutto bambini che hanno subito abusi sessuali o persone particolarmente fragili, sonnecchiano i piedi del banco dei testimoni fungendo da calmante, proprio solamente anche la loro presenza. Ma questa è una cosa straordinaria, non è che devono fare tanto, è lì che ti accorgi di quanto sono importanti le relazioni sociali che stabiliamo con i cani. Non c'è bisogno che il cane faccia i salti mortali. No, difatti, perché dice che la semplice vicinanza di un compagno a 4 zampe fa sentire più al sicuro, abbassando la pressione sanguigna e riducendo l'ansia. Ma guarda, l'ho visto te prima che guardavi le foto di questo articolo, a un certo punto è venuta fuori una foto con il cane per terra e ti ho detto mamma mia. E pensa, questa è soltanto una foto, tu pensa a chi è lì in questo stato qui, che si vede dal vivo in un'aula di tribunale un cane, che effetto che può avere. Allora, questa è una bellissima notizia. Fra l'altro dice che ci sono altri stati come il Cile e il Canada che stanno cercando, perché questa cosa è nata in America, ha tirato l'attenzione appunto anche fuori dagli Stati Uniti, e sta ispirando progetti analoghi in Cile e in Canada. E perché anche l'Italia non ci pensa, per esempio? Beh, sai, dipende dalle persone che sono in Italia, cioè se ci state ascoltando, se qualcuno sta lavorando con i cani, lavora in pet therapy eccetera, c'è anche questa idea, si può mettere in contatto con questa associazione americana. Mi ricordi come si chiama, Rosetta? Si chiama Courthouse Dogs. Ecco, su focus.it in internet potete trovare maggiori informazioni e potete mettervi in contatto per realizzare magari anche la stessa cosa in Italia. Con metodi gentili. Passiamo a un'altra notizia che io trovo da una parte fantastica, perché c'è questo miliardario cinese Wang Yan, anzi oramai ex miliardario cinese, che ha una storia particolare. Un imprenditore di 29 anni che aveva perso il suo cane, l'ha cercato dappertutto disperato, e non trovandolo a un certo punto ha deciso di andare a cercarlo anche dentro un macello. Perché purtroppo in Cina ogni anno vengono macellati 18 milioni di cani. Fra l'altro lui insomma lo va a cercare dentro questo macello, non lo trova. Ma voglio dire, sono 50.000 cani al giorno. Ecco, che cosa si trova davanti? Ha trovato, lui dice, l'orrore, non ha trovato il suo. Cani presi a bastonate, trascinati per terra per poi essere sgozzati con un coltellaccio. Non sempre l'animale muore subito. Talvolta resta cosciente mentre il sangue esce a fiumi, dopodiché il cane viene spellato, bollito, fatto a pezzi e venduto per essere mangiato da qualcuno. Pazzesco. A quest'uomo cosa succede? Che l'imprenditore inizia una missione. Nel 2012 ha investito tutto il suo patrimonio per acquistare un mattatoio in disuso e convertirlo in un rifugio per cani randagi. Fantastico. Pensa, è riuscito a salvare oltre 2000 animali che sarebbero stati destinati al macello, e oggi il rifugio ha circa 215 cani. Però lui in tutto ciò si è indebitato da miliardario, qual era, perché vive per loro. Lui, la sua missione, lui non ce la fa, vuole assolutamente salvare tutti i cani possibili. Lui dice che non accetta donazioni in denaro perché preferisce affidarsi al buon cuore delle persone che vogliono dare cibo e rifornimenti e cure mediche per tutti questi animali. Vedi, qua impariamo una cosa che a volte per i cani noi sappiamo, no? Per esempio, un cane viene aggredito da un altro cane di una certa razza, tipo l'alano, il doberman, no? E poi ce l'ha con tutti i doberman. Questa cosa si chiama generalizzazione. A noi fa ridere, ah, certo, quando la fa il cane, eppure noi facciamo lo stesso errore quando diciamo tutti i cinesi sono così o cos'ha. Qui abbiamo la dimostrazione invece che ci sono anche delle associazioni animaliste in Cina che difendono i diritti degli, sì, animali, infatti. Allora, piuttosto che sempre osteggiare, lamentarci delle cose che non vanno, dovremmo andare ad aiutare questo genere di persone che ci sono anche in Cina. Assolutamente. Ora invece ti voglio fare una domanda, perché a chi la faccio se non la faccio a te? È vero che la saliva dei cani è sterile? Questa è tipo la supposta di saggezza. La nostra supposta di saggezza, esatto. Sono cresciuta anch'io con questa supposta di saggezza, eh? Non è vero. La saliva dei cani, la saliva dei cani è piena di batteri. Bene. Quello per cui il motivo per cui si dice che la saliva dei cani è sterile è perché il cane, sai che mangia sempre schifezze un po' in giro, sì, no? Tra l'altro i cani sono i nostri spazzini, cioè sorgono attorno ai villaggi per ripulire le nostre immondizie, addirittura anche le nostre feci qualche volta, quindi è per quello che i cani a volte mangiano le feci. Comunque questo, che cosa succede? Che loro nella loro bocca hanno una proteina che si chiama lisozima. Questa proteina è un batterio statico, cioè mantiene la condizione dei batteri in modo statico, non la fa alterare. Questo è il motivo per cui i cani, quando hanno delle ferite, si leccano. Ma loro, quindi, però, se lo fanno le nostre ferite, non funziona. Non credo proprio che possa farci bene. Che funzioni uguale, tu dici, eh? Soprattutto la saliva di un cane malato, dobbiamo stare molto attenti perché invece potrebbe trasmetterci dall'infezione. Quindi, allora, mi raccomando, questa cosa che si è detto che la saliva dei cani ci disinfetta non è vero. Quindi se abbiamo una ferita, anzi no, ovviamente poi i nostri cani sono tutti... Sì, diciamo che non dobbiamo... come si dice, aver paura del fatto che il cane ci stia leccando la mano, la faccia, eccetera, perché questo non c'entra nulla. E invece un'altra domanda, posso? Un'altra seconda domanda? Mi dica. Allora, i cani mangiano l'erba. Ogni tanto li vedi che strappano l'erba. Mi fa ridere perché mi sembra di vederli addirittura che scelgono filo d'erba per filo d'erba. Cioè che cacchio di filo d'erba devono scegliere. Li vedi proprio lì, scientifici che scansano con una misticanza. Una misticanza di fili d'erba. Mangiano l'erba e poi vomiticchiano. A volte succede anche questo. Sì, perché alla base di questa cosa, la teoria più accreditata, è quello che l'erba abbia un effetto depurativo dello stomaco, no? Perché il modo in cui è fatta, infatti è per quello che scelgono l'erba adatta anche i cani, serve a ripulire lo stomaco. Quindi non c'è nulla di male, questa è la cosa che dobbiamo dire a casa. Se il vostro cane si mette a mangiare l'erba quando voi ve ne andate in passeggiata, evitate di dirgli no, perché sennò poi vomita. A parte che non è che sempre vomita, potrebbe anche capitare. No, però questo gli pulisce lo stomaco. Quello invece a cui bisogna stare attenti è se il cane lo fa continuamente, oppure addirittura se sappiamo che va a mangiare l'erba in un posto dove che è stata trattata chimicamente. Allora in quel caso è meglio rivolgersi al veterinario, perché potrebbe significare che il cane non stia bene magari. Io per esempio, per esperienza personale, questo accadeva molti anni fa, Lucky mangiava una sola volta al giorno, mi ricordo all'epoca, perché io volevo durante il giorno avere una grossa motivazione al cibo per fare tutti i miei addestramenti, il mio training. Allora, in quel caso lì, mi ricordo che a volte succedeva che Lucky aveva succhi gastrici al mattino e siccome gli davano fastidio, mangiava l'erba e li vomitava. Il veterinario mi aveva giustamente, da lì ho fatto una ricerca che mi ha aiutato molto sia nel training, non so, i bocconcini, che nella alimentazione quotidiana, mi ha detto: fraziona il pasto, non dargli da mangiare una sola volta, sì, perché sennò è ovvio che... Quindi i cani possono mangiare due volte al giorno, addirittura tre volte al giorno. Beh, addirittura la veterinaria Barbara Gallicchio a me ha detto che i cani, quando sono troppo piccoli, di taglia troppo piccola, a volte non rimangono con lo stomaco come i cuccioli, cioè che non distribuiscono bene il glucosio e gli zuccheri, e quindi rischiano di avere i cali di zuccheri. Per esempio, il mio cagnolino piccolo Euphoria non può stare più di 4-5 ore senza mangiare, quindi bisogna anche capire questo, cosa che io per esempio non sapevo. Si dice sempre che il cane va a mangiare una volta al giorno, ma non è vero. No, anche questa è un'altra cazzata, possiamo dirlo, di me l'ha detto mio cugino, sì, in questo caso. Come i lupi mangiano ogni tanto, allora due volte al giorno, a volte anche tre, poi voglio dire, poi nell'alimentazione ne abbiamo parlato tanto. Questa, cosa qua dell'erba, sai che c'è qualcuno che dice, secondo me, è un'ipotesi, mm-hmm. non è detto che non sia vera, dice no. E al cane piace proprio il gusto dell'erba. Sì, condita un po' d'aceto balsamico e un po' di germoglio. Perché devi prendere in giro, magari è vero. Cioè, no. Dobbiamo ricordare che parte della dieta del cane è vegetariana. Cioè, loro mangiano anche frutta e verdura, importante. Ma era per giocare. Era per giocare. Allora, però, per giocare, se vi siete persi qualche puntata di Chiedimi se sono felice, il mondo della prospettiva del cane, andate su il sito www.radio24.it, perché se mettete il nome del programma, il titolo del programma, Chiedimi se sono felice. Trovate tutti i podcast da luglio, oggi, da quando abbiamo iniziato, quindi con tutti i titoli e gli argomenti che abbiamo trattato, perché spesso se li perdono e mi chiedono, ah, quando ne avete parlato, dove li posso trovare? Sì. Lì potete trovare ma tutto. Ma non soltanto, quanto. Sai che cosa succede? Quando tu sei in trasmissione, a volte senti parlare un esperto, un veterinario, oggi abbiamo ascoltato Susanna Canonico, per esempio, che è un istruttore cinofilo, allora uno dà il consiglio del libro, dà il consiglio del sito, dà il consiglio, sente parlare un esperto e vuole ricordarsi chi è, allora in quel caso può andare a recuperare il podcast della nostra trasmissione e di qualsiasi altra che abbiamo qui su Radio 24. E se volete scriverci, chiedimi se sono felice @radio24.it. Ciao a tutti da Rosita Celentano e Angelo Vaire. Ciao.